I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La drammatica e per molti versi sconsiderata repressione che il presidente turco Erdogan sta attuando nei confronti dei cosiddetti oppositori ormai sta assumendo i contorni di una vera e propria resa dei conti al di là delle responsabilità del tentato golpe. Lo diciamo per chiarire in maniera inequivocabile che in questo momento, quando si parla di Turchia, il primo problema e la priorità assoluta deve essere data al rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini turchi. Certo che già le varie agenzie internazionali stanno riflettendo sull'impatto che questa situazione avrà sulla crescita economica turca. Ieri Standard & Poor's ha abbassato il voto al debito turco e soprattutto ha posto in negativo le prospettive future. È troppo presto chiaramente per capire l'entità del danno economico, ma è abbastanza certo che vi sarà un danno economico, con un rischio anche verso le banche straniere esposte in Turchia per circa 120 miliardi di dollari. Le più presenti sono le francesi, che hanno 40 miliardi di dollari di esposizione, seguite dalle britanniche con 25 miliardi di dollari. Così come certo sembra già il danno a una delle voci principali del bilancio commerciale turca, ossia il turismo, e il rischio che un avvitamento della situazione economica produca un ulteriore avvitamento delle tensioni politiche è dietro l'angolo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare inalterati i tassi di interesse e di non operare nuovi interventi sul fronte della liquidità o quantomeno interventi aggiuntivi. Ma che cosa sta succedendo, visto che il Fondo Monetario proprio pochi giorni fa ha detto che l'effetto Brexit si sentirà con un rallentamento globale e soprattutto europeo? È un'opinione che in questo momento Draghi sembra non avere, tant'è vero che ha persino messo in evidenza come i mercati finanziari abbiano saputo reagire nel migliore dei modi allo shock creato dal referendum inglese. Ma anche se bisogna sempre prestare attenzione ai mercati finanziari, visto che è la stessa BCE ad alimentarli con la liquidità, fatto sta che evidentemente gli effetti negativi di Brexit ancora non si sono visti, al contrario però di quello che avviene sulla politica. Il messaggio reale di Draghi è: dalle banche agli aiuti di Stato e persino a Brexit, non è certamente un problema finanziario di liquidità quello che hanno i mercati. In realtà è un problema politico. Come tante altre volte nei tempi recenti, la capacità politica della Commissione europea, la capacità di gestione delle crisi e soprattutto di poterle prevenire sembra fare acqua, lasciando proprio alla Banca Centrale Europea un ruolo politico che non è suo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.